Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. E noi siamo qua, come tutti sabato mattina, a tenervi compagnia, a farvi da agro amaro, ma anche un poco pétillant aperitivo del fine settimana. Pétillant, sai, il pétillant è Renato Cifarelli, che è l'imprenditore al mio fianco, questo che finge di non sapere, lui che pasteggia a Krug, capisci, champagne, che pétillant è quella caratteristica che divide, a seconda del loro corpo, no? Gli champagne da aperitivo, tutto pasto, eccetera. Capito, sì, perché ha a che vedere con la produzione. So. No, non ci credete per un secondo, ripeto, c'ha qui sempre dietro il portatile del Krug, quindi non per tenerlo. Allora, qui in studio per i conti della Belva, ora vi diciamo subito per telefonarci 800 24 00 24, per le opinioni 349 238 6666, gli argomenti della giornata, ma intanto i saluti dei compari, oltre a Renato Cifarelli, che sta buongiorno qui a sorseggiare a champagne già a quest'ora la mattina, alla faccia del suo dipendente, come ovvio, il Mario nostro Seminerio, buongiorno, che invece no, perché è molto più accostumato e si occupa del bene pubblico. Ma poi Mario non è astemio, scusa. Sì, abbastanza. Questo conferma che gli ha prima offerto lo champagne e lui gli ha detto no, cioè, come vedete, piena conferma. E il nostro compare invece, il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè? Ci sono qua, al massimo mi tocca brindare col frizzantino, altro che pétillant, champagne e Krug. Qui siamo fermi al prosecco, cari no, compagni. Sei Liguria, grande distretto. Vermentino. Ma sai che fanno anche degli uvaggi col vermentino, li fanno pétillant anche quelli, lo sai? Ti sei perso questo sviluppo? Noi oramai, sì. Perché l'enologia italiana sta tentando di tirar fuori dai vitigni tutto quello che ci si può provare a tirar fuori con la tecnica, ma poi nel rispetto delle caratteristiche di fondo. E sta facendo un gran lavoro, guarda, esatto. Sta facendo un gran lavoro l'enologia italiana e stiamo recuperando sicuramente in valore, no, scherzandoci sopra, ma guardate che il dato lì è molto interessante. Effettivamente per secco, ho visto Ferrari, Franciacorta, stanno facendo numeri fantastici. Avanti così, ecco, però, ci ho detto, lo spumante francese ultimamente lo trovo un po' pesantino, non so, e trovarmi qui al mare a parlare di cantieri, non so se mi spiego. No, lo so, tu sei lì perché a Genova, come ovvio, in la salone della nautica, eccetera eccetera, non parlare di spumante francese se no ti sparano, perché come ovvio è un'altra cosa. Però detto tutto questo, allora, i temi della giornata, cari ascoltatori, noi cominciamo come sempre con Mario, anche perché ci sono tanti sviluppi in Italia, tra l'altro è atteso anche per oggi il Consiglio dei Ministri con la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, ci doveva essere ieri, però insomma arriva oggi, l'Istat ha corretto qualche numeretto che riguarda l'anno scorso, ci sono eventi di una certa portata in corso, il discorso della May ieri è venuto a Firenze a fare per la Brexit, domenica si vota in Germania con la conferma della Merkel, ma vedremo con chi, come compare e con che maggioranza e per fare che cosa, quindi tanti punti su cui spendere qualche parola. E poi andiamo dalle 10.30 alle 11 con Renato Cifarelli, torniamo su un'altra questione. Avete visto che dall'inizio, dopo l'estate, stiamo ogni sabato tentando di tirare una fetta di come stiamo andando con le imprese in questa ripresa italiana, e oggi ci occupiamo delle competenze che servono. Siamo indietro su Industria 4.0, soprattutto su un punto, non sugli incentivi, sugli investimenti, ma sulle competenze. I competence center non partono, e soprattutto la parte che riguarda la rivoluzione delle competenze necessaria per evitare che Industria 4.0 sia solo l'utilizzo di nuovi mega incentivi, beh, lì si fa fatica a vederla nella scuola, nell'università italiana. Poi, andando avanti invece con i temi, dopo le 11, momento sull'informazione dei consumatori, abbiamo con noi Vito Riggio, quindi il presidente dell'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, per capire con Ryanair, con la vicenda del blocco, senza precedenti storici, in termini così elevati, dell'operativo di una compagnia che era stata solo successo internazionale fino a questo momento, che cosa avviene per la tutela, la riprotezione nei passeggeri anche nel nostro paese. Un po' in tutta Europa le autorità stanno rafforzando la vigilanza e le tutele. Proprio ieri c'è stata una risposta, ma anche per Ryanair in realtà la rottura è senza precedenti, perché questa volta O'Leary non c'è più riuscito a evitare che all'interno della compagnia nascesse, si radicasse, lottasse e vincesse, purtroppo per lui, per O'Leary, un vero e proprio movimento organizzato dei suoi dipendenti. È la prima volta e credo non tornerà indietro questa faccenda. Dopodiché andiamo a parlare con chi ha assistito in questa vittoria trionfante in giudizio a nome di tutti noi autonomi di Orietta Berti. Orietta Berti, non l'avrei mai detto che nella vita finivo per considerare Orietta Berti come una specie di martire, eroina e testimonial di Mises e Hayek. Tutto nella vita può capitare, perché Orietta Berti ha vinto fino in Cassazione contro il fisco che gli voleva appioppare, come fa a molti lavoratori autonomi in Italia, una stabile organizzazione per dire mi paghi l'IRAP, e lei invece è riuscita a dimostrare no, e adesso il fisco gli deve dare decine e decine di migliaia di euro di IRAP in cassato impropriamente. Avremo con noi i suoi avvocati per farci spiegare come e quanto costa in realtà tentare di affermare le proprie ragioni quando il fisco ha torto, perché non è vero che lo Stato, quando si parla di tributi, e non solo allora, ha sempre ragione. Ecco, più o meno questa è la nostra puntata, ma rapidissimo, altro giro, ognuno può dire una cosa in più che lo abbia colpito questa settimana. Renato? Ah, io questa settimana sono stato spiacevolmente colpito da questa cosa. Allora, in molte aree dell'Italia la disoccupazione è ormai strutturale, cioè quella che sotto quella non ci puoi andare, perché sappiamo tutti che l'Italia è un po' a macchia di leopardo. Parlavo con un mio collega che è in un'area dell'Emilia Romagna dove ormai sono quasi alla piena occupazione, del fatto che la sua azienda sta crescendo, e io per primo gli ho detto sarebbe il momento di implementare un po' il lavoro al sud. E lui mi ha detto è la stessa cosa che penso io, perché penso che il sud vada sviluppato. Peccato che quando ho provato ad andare ad aprire l'azienda al sud mi sono reso conto di quelle che sono le situazioni di contorno per l'aprire un'azienda al sud. Ho potenziato l'azienda in Bosnia. E qui ci sarebbe un grande discorso a farvi, e così può sembrare una battuta razzista, ma la questione è i contesti sfavorevoli. Lui mi ha detto, sono arrivato là, mi hanno detto, beh sì, poi per le assunzioni ti diciamo noi chi assumere. Ah, ecco. Ma in Bosnia o qua in Italia? Perché anche in Bosnia, con i paramilitari, assumono, credo che non sia troppo diverso. Là l'azienda, e questa è una mini multinazionale tascabile. Vabbè, di quelle questo che bisognerà, vedrai che di puntate sul sud non ci mancheranno. Mario. Ma questa settimana mi ha colpito il momento autocelebrativo dei banchieri italiani. Il presidente dell'ABI, il dottor Antonio Patuelli, che ha detto: siamo andati avanti mesi a parlare del problema mondiale dei non performing loans italiani, e ora che in 7 mesi sono diminuiti del 25% non ne parla più nessuno. Il che non so esattamente cosa volesse sottintendere, una cosa del tipo come siete stati bravi, però il problema è che non è che siano stati bravi. Ci sono stati 4-5 eventi traumatici, no? le 3-4 casse ripulite dalle sofferenze e donate. C'è stata il crollo verticale delle banche venete, la cui parte buona è stata donata, diciamo, a Intesa, e la cui parte ammalorata è stata espunta dalle statistiche di sistema. Poi c'è stato Montepaschi che deconsolida 28 miliardi. Ma soprattutto ci sono le GACS. Noi dovremmo parlare delle GACS, no? Del sistema di garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, dove la tranche senior può essere tenuta in pancia da chi l'ha originata. Cioè, con la garanzia statale, io banca regalo a un acquirente, perché posso anche regalare la tranche junior e la mezzanina, che sono quelle più rischiose, che prendono prime le perdite a cascata, e posso tenermi, con il beneplacito della Vestager, in portafoglio la tranche senior con garanzia statale. Che vuol dire questo? Che se nel corso degli anni le perdite si mangeranno il capitale della senior, i soldi ce li metterà il tesoro. Quindi io non capisco, visto che ci hanno detto per anni che c'era il problema, che i non performing loans erano un mercato sbagliato, che non c'era mercato, che era oligopolistico, che serviva una bad bank, poi le abbiamo deconsolidate con sangue, sudore, lacrime, attuale e futuro dei contribuenti italiani, e abbiamo l'ABI che festeggia quanto sono stati bravi. Quindi mi pare che siamo sempre in questo paese in un universo parallelo. Va bene. Caro Alberto. Devo capire che qui la fabbrica delle tasse non chiude mai. Questa settimana se ne sono inventate due bellissime. C'è la tripla versione della web tax, bellissima questa, a livello europeo. Ieri è uscita quella, la tassa, la nasti aggiuntiva per i contratti precari. Ogni settimana la fabbrica delle tasse ne inventa una. Fammi solo rapidamente ricordare il dibattito sulla web tax, che è veramente imbarazzante. Addirittura l'europeo vogliono inventarsi non una ma tre web tax, le ricordavi tu stesso, no? Una è l'imposta sul fatturato, l'altra è tenuta alla fonte sulle transazioni e l'altra è un'imposta così sulle attività digitali, no? Tassiamo l'innovazione. La prima finisce a violare i trattati internazionali, esatto. La seconda è doppia imposizione, cioè esatto. Tasso qua e tasso là. La terza viene trasferita, come è successo con la SIAE, sulle memorie, brutalmente sui clienti finali, che pagheranno questa tassa. Proprio papale. Mi sembra un contributo straordinario che l'Europa sta dando all'innovazione. Mi sembra un modo perfetto per dire conquistiamo produttività. Stessa cosa ieri il governo, che dice, sai che c'è, aumentiamo, raddoppiamo, triplichiamo il contributo NASPI sui contratti a tempo determinato. Proprio ieri che Draghi a Berlino, no scusate, a Dublino, al Trinity College, ha detto molto bene che il vero problema è incentivare la mobilità del lavoro dei giovani, che devono imparare a muoversi. Quindi facciamoli girare in Italia, in Europa, facciamoli cambiare lavoro, dopodiché si stabilizzeranno. Hanno fatto un bellissimo discorso. Noi siamo il governo che vuole aumentare le tasse sulla mobilità, ancora legando l'idea che il contratto a tempo determinato sia peggio di quello indeterminato. Sappiamo che non è così, sappiamo che dobbiamo uscire da questa diade che sta bloccando il dibattito politico istituzionale. Dobbiamo parlare di employability e di formazione. Anche qui ne parleremo dopo le 10.30, ma intanto io accomuno nel mio giudizio questi ultimi due post, quello di Mario su Mario su Patuelli e questo sui tassatori di Stato. Il mio commento è questo: sirena, portateli via! Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Ed eccoci qua, è questo giorno di Padre Pio da Pietralcina. No, scusa, oggi è il compleanno di Bruce. E oggi è il compleanno di Bruce. Giusto. Oggi, vedete le due anime, giusto. Quella popolare mia che dice Padre Pio da Pietralcina, invece l'algido, capito, imprenditore che dice Bruce, figurati, però Padre Pio da Pietralcina, questa è l'anima. Ah, quindi terra. Springsteen e Padre Pio... Due, no, adesso due non mi dire che sono nate... due rockstar, due fondatori di religioni, ma sai che gli spostiniani praticamente una religione. Benissimo. Allora, Mario, da dove cominciamo? Ma l'Istat ha rivisto i conti italiani 2015-2016. Nel 2015 la crescita è stata 0,2 punti sopra il preconsuntivo. Il debito PIL è sceso al 131%, è risalito nel 2016, quindi è tutto un andi rivieni, praticamente non cambia molto, però oggi noi avremo il Consiglio dei Ministri che dovrà licenziare la nota di aggiornamento al DEF, che sarà l'impalcatura della legge di stabilità perché sarà la cornice dei numeri e delle compatibilità finanziarie, e da quello che si legge stamattina sui giornali pare che il governo voglia alzare le stime di crescita per il 2018. Qui c'è da fare una piccola premessa pedante. Tutti i principali organismi internazionali di previsione, non solo per l'Italia, ma per tutte le economie sviluppate, certamente per l'Eurozona, vedono nel 2018 un rallentamento della crescita. Cioè vedono questa piccola sparata nel 2017 che poi si placa nel 2018, ma tipo 2, 3, 4 decimi di punto percentuale. Se è corretto quello che riporta la stampa oggi, i giornali oggi, il governo italiano vorrebbe alzare la stima del 2018 e tenerla molto vicina a quella del 2017. Quindi questo è abbastanza sfizioso. Un'altra cosa di questa settimana che mi ha colpito è stata la presa di posizione del ministro Padoan, che ha detto: sì, va bene, noi abbiamo una situazione di finanza pubblica difficile, abbiamo un sentiero stretto, e io sono assolutamente d'accordo con lui. Non si può che essere d'accordo. Esatto, soprattutto per il lavoro che Padoan ha fatto in questi quasi 5 anni, di grande prudenza, di grande capacità di sopportazione, di mediazione rispetto alle rodomontate altrui. E però Padoan ha detto: noi siamo riusciti a far cessare la salita del debito, cioè a stabilizzare il debito PIL, mentre in tutti gli altri paesi il debito PIL continua a salire. Ora, siccome io sono un po' come San Tommaso, cioè se non vedo non credo, sono andato a vedermi i dati Eurostat aggiornati al primo trimestre di quest'anno. E infatti no. E se guardiamo l'anno su anno, l'Italia è calata dello 0,1%, che è quella cosa che fa fare a Marco Fortis la ola e scrivere dotte articolesse. Ma ci sono paesi come la Germania, l'Olanda, l'Austria, che hanno avuto un calo di 2, 3, 4, 5 punti percentuali del debito PIL nell'ultimo anno. Quindi ho l'impressione che il ministro Padoan si sia fatto un po' prendere la mano da questo entusiasmo del tipo siamo i migliori, lasciateci. Questo è semplicemente un po' così per notare le cose per come sono. E poi Oscar, vogliamo dire... Detto, ieri il presidente Pidino della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo diceva ieri mattina alla 7 che l'Italia è il paese con più alto avanzo primario d'Europa, quindi la gara a chi le spara. Sì, esatto, esatto. Questo, che poi guardate che non è un merito avere da 20 anni a questa parte... Capito. Un alto avanzo primario, perché sottrae risorse alla crescita, soffoca il paese. E perché la modalità di farla con effetti più, devo dire la verità, infelici... Un rigore di bilancio che del resto non riesce a ottenere di piegare il debito, quindi due obiettivi negativi insieme. Ma certo, certo, e perché abbiamo un pessimo impatto del deficit. Però, siccome c'è un ascoltatore che dice: perché non dite che lo spread del Portogallo fra poco raggiunge quello dell'Italia? Lo diciamo. Ma non solo questo, caro ascoltatore, ma se guardiamo i credit default swap e non i titoli di Stato, lo spread del Portogallo è lievemente più stretto di quello dell'Italia, il che è notevole come risultato. Se posso, Mario, vi sentite? Certo. Sì, vorrei consigliare all'ascoltatore di leggersi il bel discorso di Ignazio Visco su il risanamento necessario del bilancio italiano e sulle prospettive di medio termine del bilancio pubblico. L'ho trovato l'analisi più pacata, lucida e rigorosa degli ultimi anni. Non so cosa ne pensate voi. No, io penso che quando Ignazio contento. Visco parla di finanza pubblica è mille volte meglio di quando parla di direttiva europea delle banche. Mille volte. Voglio candidarlo all'executive board della BCE, perché a fare politica monetaria, che la sede è Francoforte ovviamente e non Roma, devo dire che Ignazio Visco è lucidissimo, rigoroso, con le citazioni leggibili, un grande discorso. Sulla sorveglianza bancaria, sull'analisi dei mali e sulla necessità di mettere mano strutturalmente a politiche di medio e lungo termine, cosa che il DEF non sta facendo. Il DEF è ancora una roba di breve respiro. Posso dirti una cosa? Di brevissimo respiro, perché ci sono le elezioni e questo lo sappiamo tutti e bisognerà vedere. Io mi auguro comunque che regga la trincea che Padoan e Gentiloni fino a questo momento tengono alta contro tutte le richieste, sfonda conti su fantasiose inventive per prepensionare di tutto e di tutti. Ma detto tutto questo, lasciatemi dire però, in linea con quello che ha detto Mario, che anche quello che propone nel merito la Banca d'Italia su finanza pubblica, beh, è sempre la stessa storia, alzata ancora più alta, quella come avanzo primario. Avanzo primario al 4% sine die. Perdonate. Cioè, o questo paese capisce, a maggior ragione quando finisce il QI, che sul debito pubblico ci vuole una manovra straordinaria fatta sul patrimonio, a cui aggiungere un intervento pro crescita per il PIL nel breve e... anche avanzi primari, ma se crediamo di continuare ad andare avanti con avanzi primari di 3, 4, 5 punti di PIL, li scriviamo, ci facciamo applaudire dai rigorosi come noi, ma non esiste, non li vedremo mai e non funziona, appunto. Questo, perdonatemi, ce lo spiegano 20 anni di storia di finanza pubblica italiana. Quindi l'idea di non mettere mano, come si poteva e si può fare, a un intervento straordinario a batti debito, visti gli attivi pubblici, questa miopia totale dei politici italiani, e devo dire voluta molto anche da Banca d'Italia Italia, struttura tecnica del MEF, io la considero una colossale stupidaggine, colossale, perché come vedete il debito non si riesce a piegarlo. Adesso che quando il QE rientrerà, auguri, si riscatenerà naturalmente in Italia la solita storia contro coloro che consentono la speculazione sul debito pubblico italiano. I Minenna d'Italia riusciranno ad avere consenso, perché questo è il punto, cioè i furbi che si candidano sapendo le cose ma dicendole col ditino in alto per vedere dove va lo stato d'animo della politica per incolpare gli altri, ecco, e risaremo al solito punto. Io la vedo un po' così, a dirvi la verità. Oltretutto non aiuta il quadro internazionale, lasciatemi dire, la Brexit dura 2 anni in più, se prendiamo sul serio la May ieri a Firenze. Incredibile, siamo tutti d'accordo qui nel dire che non ci aspettavamo 1 anno e mezzo dopo il referendum di avere una Regno Unito con le idee ancora purtroppo così confuse. Così italiane. Così confuse, veramente una cosa. Per il resto io apprezzo che inizino a diventare un po' realisti, inizino a dire beh sì, dobbiamo pagare, beh sì, vogliamo una cosa senza rinunciare troppo al mercato unico. Ma insomma, quella roba lì non aiuta. Uno, due. La Catalogna a me lascia senza parole, perché la Catalogna è una miopia totale per me, l'Unione Europea e tutti quanti, consentire che si creda di poter trovare soluzione a nuove autonomie glocal con le manette. Non ci abbiamo tempo per dire altro, ma mi pare veramente incredibile. E il resto della vicenda internazionale, il ritorno alle banche centrali indietro, le instabilità che ci sono, auguri all'Italia che pensa col suo debito pubblico di dire, di avere da una parte rigoristi che dicono 4% di avanzo primario, a cui io non credo, e dall'altra tutti i partiti che invece vogliono sfondare. Io la vedo un po' così, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta, e compare di Conti da Belva in studio con me, Mario, Renato. E ci sei sempre al telefono? Certo, certo, qua, perché adesso il mare ligure. Noi abbiamo bisogno. Ma caro, volevo sapere, Carlo Alberto, stai costruendo la barca? Perché prima si sentivano delle... La sta comprando, quindi costiamo sul cantiere. Prima si sentivano dei colpi comprando. Di cosa ti compri? Un ferro non da stiro? Non si vende nulla qua, si compra, ragazzi. Lo so che tu ti compri le barche. La roba! Ma cosa ti compri? Un ferro da stiro? Ah, io non entro nel merito del singolo oggetto, io parlo di produzione, di impianti, di tecnologie. Comunque, insomma, anche la nautica, grazie alla domanda estera, devo dire, vede segni finalmente più. Sentite, in questa mezz'ora noi dobbiamo tentare di approfondire un aspetto un po' duplice, ma è collegato, perché è sempre collegato al fattore capitale umano nell'impresa che sta crescendo, sta andando bene. Questa settimana c'è stata la conferenza stampa di aggiornamento in vista anche delle conferme degli incentivi di Industria 4.0 nella prossima legge di bilancio. Ripeto, i risultati fino a questo momento sono buoni, perché gli investimenti fissi lordi hanno delle variazioni nel primo semestre di quest'anno sul 2016, più 11,6% per i macchinari, più 10,7% per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, in generale comunque in totale più 9%, e quindi ci sono dei segnali molto forti, super incentivi in altre parole. Beh, funzionano. Tra l'altro ci non sono... si riesce ad avere la roba in questo momento, gli ordini si stanno allungando. Esatto, perché sono finite le scorte e quindi bisogna, vedrete che nei dati si vedrà anche questo. Esatto. I segnali sulla spesa, ricerca, sviluppo e innovazione anch'essi sono positivi a doppia cifra. Quelli sugli investimenti early stage meno, a dire la verità, ma non mi sorprende per niente, perché il settore capitale di rischio nei primi segmenti di impresa in Italia meriterebbe una riflessione a parte. Ma che cosa succede invece? Succede che ci sono tra le cose di cui sicuramente non essere soddisfatti, c'è la componente del capitale umano di Industria 4.0, che in teoria sulla carta era annunciato un anno fa con obiettivi a cui io non ho creduto, ve lo dico subito, perché credere che improvvisamente ci siano 150.000 persone alla scuola italiana che fruiscono della formazione sui temi del digitale, che tutto il sistema che è stato colpito negativamente dagli incentivi del Jobs Act, della apprendistato, si volti verso i temi di industria 4.0, ecco, io ci credo molto poco, purtroppo più facile che io creda che gli iscritti degli ITS siano volti verso industria 4.0, ma gli iscritti di ITS sono 7.000 in tutta Italia rispetto ai 760.000 della Germania, quindi capite, ecco, quindi su la formazione, il capitale umano non ci siamo, c'è poco da fare, non ci siamo perché la scuola e l'università li vivono come superfettazioni, cioè non, dicono i problemi sono altri nella scuola, che non mancano i supplenti, l'università, ci sono i docenti in sciopero per gli appelli, sì, industria 4.0, e i competence center, che dovevano essere un pezzo fondamentale dell'architettura di industria 4.0 per unire insieme nella catena capitale umano formato, investimenti in ricerca, collaborazione con le università nei settori di industria 4.0, beh, su quelli non è partito neanche il provvedimento. Ecco, allora, su questi due aspetti ragioniamo insieme e prego Renato e Carlo Alberto, per le proprie parti, anche di tenersi pronti. Abbiamo con noi collegati Francesco Seghezzi, che è direttore della Fondazione ADAPT. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Alfonso Fuggetta, che è ordinario di informatica al Politecnico di Milano e amministratore delegato del CEFRIEL, Centro di Formazione, Ricerca e Innovazione al Politecnico di Milano, nel campo esatto dell'Information Technology. Seghezzi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alfonso. Allora, Seghezzi, voi scrivevate di ADAPT paper sulla componente di capitale umano e la maniera di concepire in maniera diversa la contrattualistica del lavoro, prima ancora che le skills che mancano, di Industria 4.0 due anni e mezzo fa. Dopo due anni e mezzo, perché ho visto i paper, li avevo tenuti da parte dal 2015 suoi editi da Boschi, mi pare che non ci siamo per niente. Non ci, l'esempio con cui siamo, che abbiamo fatto qualche minuto fa, vogliono tassare di più il tempo determinato, fa capire quanto lontani siamo dalla comprensione di cosa sia davvero Industria 4.0, cioè una cosa che abolisce l'unità del tempo, dello spazio e dell'azione di lavoro, del lavoro sia fordista che post-fordista, e ha bisogno di una idea completamente diversa di cosa sia il lavoro, in quali luoghi si presti, con quale interazione tra territori, esternalità rispetto al circuito di impresa. Che cos'è un'impresa? Perché che un'università non sia un'impresa, perché non è un'impresa secondo i codici statistici italiani e diritto amministrativo. Tutte queste robe qua, che sono dietro però la capacità di saper sfruttare al meglio anche il capitale umano, in Industria 4.0 io non le vedo. Voi le vedete, Seghezzi? No, non le vediamo. Quando è stato presentato il piano l'anno scorso, eravamo rimasti positivamente colpiti dall'impianto, perché l'impianto si costruiva su due pilastri che teoricamente dovevano muoversi parallelamente, quindi da un lato quello degli investimenti, che poi è stato quello che si è realizzato, e dall'altro parallelamente appunto quello dei competence center, che inizialmente, proprio perché erano stati presentati in modo molto vago e generico, abbiamo interpretato in qualche modo come un'attenzione verso l'elemento lavoro e capitale umano, che era fondamentale per poter gestire gli investimenti. Il problema è che poi su questo fronte non si è andati avanti, anzi si è tornati molto indietro, perché se il primo capitolo, il primo pilastro è stato realizzato e teorizzato più volte da Calenda, senza bandi, lasciando spazio alle imprese perché non sappiamo quale sarà la forma che Industria 4.0 prenderà, quindi lasciamo scegliere alle imprese, eccetera, eccetera. Sul secondo fronte si è fatto un gran pasticcio, perché si è subito detto che i competence center devono coincidere più o meno con i dipartimenti delle facoltà di ingegneria, più o meno. Sì. Le università si sono candidate, sono usciti i nomi erano praticamente scelti, e a un certo punto si è detto che serviva un bando. Quindi adesso siamo nella situazione paradossale in cui stiamo aspettando un bando, ma in cui sappiamo già più o meno i candidati e più o meno quelli che dovranno. Sì, ma non si capisce perché abbiamo perso il 2017 così. Fuggetta, perché questa storia dei competence center ha preso il binario così sbagliato? Ma io posso così dare una mia interpretazione, non essendo stato poi coinvolto, quindi non so i dettagli di quel che è successo. Secondo me si è voluto in un qualche modo ispirarsi ai Fraunhofer tedeschi, Però non si è tenuto conto che poi esistono le leggi dello Stato italiano, per esempio il codice degli appalti, cioè non è che lo Stato può distribuire soldi a suo piacimento senza far riferimento al codice degli appalti. E purtroppo in Italia il codice degli appalti rispetto alla normativa europea è ancora più stretto e ancora più rigido, per cui non è facile poi dire bandisco e do dei soldi a qualcuno senza una procedura aperta. Secondo luogo, non si è capito bene che cosa, chi debbano essere questi competence center, perché in alcuni casi si legge che devono essere delle new legal entity, ma che vuol dire ricominciare da capo? Cioè, non è vero che valorizziamo l'esistente, ma costruiamo delle strutture nuove. E se sono strutture nuove che poi devono rivolgersi all'esistente, torniamo al punto di prima, certo. Saranno strutture pubbliche con fondi pubblici e quindi c'è il codice degli appalti. Allora, secondo me, dopo che si è annunciato un'idea che poteva avere un suo senso, una sua ragionevolezza, che è quella dei competence center, e si è caduti sull'execution, perché poi ci sono le norme e bisogna sapere come tradurre. Io personalmente avrei seguito lo stesso principio della parte degli investimenti, cioè usare quei meccanismi che poi a te, Oscar, piacciono, tipo dollar match certo. O crediti in imposta, per cui le imprese scelgono a chi dare finanziamenti, organismi di ricerca, pubblici, privati, e lo Stato contribuisce con un credito d'imposta. Certo. Quindi io avrei sottolineato questo aspetto, che tra l'altro premia l'offerta di qualità di università e per i centri di ricerca. Ma io volevo sapere una cosa. Allora, stiamo sviluppando tutti i progetti Industria 4.0 come imprenditori, ma con chi li stiamo sviluppando? Perché visto da dentro, io, e volevo chiederlo a Fuggetta, sì. Visto da dentro, l'impressione che ho io è che stiamo cercando, molti dei miei colleghi stiamo cercando di mettere delle macchine connesse, ma non ci sia dietro, proprio per mancanza di competenze, un progetto globale che trasforma veramente l'azienda in 4.0. Sono assolutamente d'accordo. Cioè, uno dei temi che tra l'altro con Francesco Secchezza abbiamo discusso varie volte è che Industria 4.0 non è semplicemente acquisto di macchinari, quindi serve della progettualità. Il problema è chi fa questa progettualità, chi la porta avanti. E in questo senso creare strutture, centri di competenza, come si era detto, che aiutassero le imprese è una cosa sicuramente positiva. In realtà ci sono, ed era giusta l'intuizione di dire valorizziamoli, però il punto, la chiave su cui secondo me ci si è impantanati è come fare questa cosa. Cioè l'idea di fare un bando per creare new legal entity secondo me blocca tutto. Avessimo seguito un meccanismo tipo appunto credito d'imposta, avremmo accelerato i processi di interazione tra imprese dire, e quelle strutture che sono in grado poi di contribuire. Posso chiedere brutalmente, con richiesta di risposta secca, sì, no, e perché in 15 secondi la risposta a entrambi. Seghezzi, sì. Che è fuori dal circuito tradizionale universitario, Fuggetta che è dentro. Quanto pesa il fatto che, come sappiamo, la scelta precisa del competence center non è stata possibile perché l'idea del MISE non era quella del MIUR, per essere chiari, Seghezzi? Questo non lo so, non ti so rispondere perché non ero dentro di queste cose. Fuggetta. Io personalmente, sì. Dall'esterno, sicuramente quando è stato annunciato il competence center, la prima cosa che mi è venuta in mente è il codice degli appalti, come lo gestiamo? Bravo. Perché prima cosa che mi è venuta in mente. Appunto. Fuggetta che dice? Sono io Fuggetta, credo che volessi dire Francesco. No, Fuggetta. Seghezzi ha detto non lo so, ma mi è venuto in mente subito. No, era Alfonso. Sono io che invece sono disconnesso, perdonate. No, io concordo e ritengo sicuramente che una mancanza di coordinamento tra queste due elementi, in più ci aggiungo anche il Ministero del Lavoro, perché a un certo punto a metà anno si è iniziato a dire che il nuovo capitolo da aprire era lavoro 4.0, come se l'elemento del competence center non c'entrasse con il lavoro. Quindi diciamo che secondo me manca un po' una visione complessiva che vada oltre la dimensione dell'investimento in tecnologia, che diciamocelo è fondamentale, ma è anche molto più semplice in qualche modo da agevolare. Certo, che è molto mentre più semplice. Tutto il resto richiede una visione più ampia che in qualche modo mette a tema dove vogliamo andare. Ma che mette a tema dove vogliamo andare, perché ripeto, non serve solo una rivoluzione in qualche modo dell'offerta di formazione, e io qua vedo che la scuola e l'università non ci pensano proprio, a dirvi la verità, ecco, cioè, mi sembra lontano anni luce, perché siamo tornati alla grande ondata in cui il sindacato comanda. Scusate, sono brutale nella sintesi giornalistica, però è così quello che è avvenuto. La buona scuola ottiene un ricentrare la scuola solo su chi ci lavora, questo è punto di fondo, e io non credo troppo alle considerazioni in libertà della Fedeli preelettorale sul fatto adesso metteremo mano a una riflessione su tutti i cicli. Quella è una riflessione serissima che non si è fatta, non si farà, perché il fondamento era assumiamo. Ma il problema è anche che una riflessione seria, Francesco, su il capitale umano industria 4.0 implica una rivoluzione vera di come si fanno i contratti. E io su quello vedo che l'effetto è stato semplicemente quello di dire: noi detassiamo i salari di produttività, compariamo a quello il welfare aziendale, puntando sul fatto che così farete meno salario di produttività e molto welfare aziendale, è quello che sta succedendo. Io ero contrario, perché secondo me la stessa detassazione per il welfare aziendale, il welfare risolve un problema allo Stato, tra imprese, Stato e lavoratori, il salario di produttività è un problema bilaterale di convergenza. Detto questo, non si cambia l'idea né del contratto, né di chi è l'impresa, né di chi è il lavoratore. Su questi punti torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati, Competence Center che non decollano di Industria 4.0. Io volevo fare una domanda a Francesco, se sì. Allora, visto che questa settimana hanno detto tassiamo ancora di più il lavoro, eccetera, eccetera, ma questo credo quello che sia tempo. Quello a tempo. Secondo lei si sono accorti che il mondo è cambiato, che le aziende lavorano 24 ore al giorno con delle supply chain basate sul livello mondiale, che le competenze delle persone sono completamente cambiate e che anche chi lavora in fabbrica ormai tira meno viti e controlla più impianti, oppure siamo sempre al punto in cui abbiamo in testa l'azienda del 1800 col fabbro che batteva il martello? E con te che sei qui con lo champagne in mano? E io con qua con lo champagne. Padrone delle ferriere. Seghezzi. No, non si sono accorti assolutamente, penso che hai colto proprio il nodo, nel senso che oggi anche tutto l'impianto lavoristico per come è costruito, e soprattutto dopo quest'ultima notizia che sembra anche un po' schizofrenica rispetto al fatto che hanno liberalizzato il contratto a termine proprio un paio d'anni fa, è l'idea che il lavoratore sia quello che starà nell'azienda per tutta la vita, il posto fisso comunque vivo e lotta insieme a noi, e dobbiamo in qualche modo favorirlo e valorizzarlo, ma senza nessuno sguardo, nessuna comprensione delle dinamiche organizzative e dei modelli produttivi che poi sono quelli che muovono le domande delle imprese. Ma questo su tanti fronti, penso al fatto che oggi tantissimi ricercatori in azienda, Alfonso lo sa meglio di me, sono assunti col contratto dei metalmeccanici, che è un bel contratto, però capite anche voi che le esigenze di un lavoratore della ricerca in azienda che fa ricerca e sviluppo non sono magari tutelate proprio al meglio. Mi piacerebbe anche vedere l'inquadramento, visto che abbiamo gli inquadramenti del 1800 più o meno. Ecco, l'altro tema è questo, per cui le declaratorie contrattuali sono ferme a delle mansioni che già negli anni 70 erano superate, e poi proprio in generale l'idea del mercato del lavoro come un sistema fisso e non un sistema caratterizzato oggi da transizioni, perché la transizione oggi è considerata ancora negativa da tutti. Cioè, se uno passa da un posto di lavoro all'altro, questo è da gestire come un'emergenza, non è da gestire come un'opportunità. L'empowerment della persona che si muove in un mercato del lavoro è sconosciuto. Però parliamoci chiaro, scusa, io tanto sono convinto di questo. Tranne Calenda, che è quello cui dobbiamo la spallata della visione e degli incentivi, soprattutto della parte investimenti e così via, perché poi tutto il resto ha tempi molto diversi e non ci sono tracce di una vera rivoluzione in corso, tranne la voglia delle imprese di crederci, ho capito, ma sto parlando sulla architettura delle strutture nuove, che invece in Germania sono partite potentemente, ma sono partite in Germania, in Francia con modalità diverse, in Gran Bretagna da anni e anni e anni, ecco, su questa nuova modalità di concepire come si produce, come si esternalizza e reinternalizza, che cos'è un'impresa, che cos'è un contratto e che cos'è un lavoratore, perché è la somma di cose diverse. Oscar, però, mi senti? Sì, vai. Eh, sai che però che qualche colpa ce l'hanno anche gli imprenditori e le imprese, Confindustria, il nostro editore, che non ha fatto in questi anni un lavoro ben strutturato, per esempio, di catalogazione delle competenze. Ma com'è possibile che mi chiedano qualcuno bravo col computer? Ma non esiste, così come l'offerta deve imparare a esporre le proprie opzioni di formazione in maniera rigorosa, anche la domanda deve saper articolare. Sono d'accordo con te, quindi però standardizzare. Brava, posso dire una cosa? Sì, però guarda che se ci guardiamo intorno, fatemi il nome di un politico italiano destra, centro, sinistra che vi serva, che mi sembra che abbia qualche idea. Non dico non le idee chiare, ma qualche politici, idea su questo. Nemmeno io me l'aspetto, però. E facciano una. So che alle prossime politiche arriverà gente che su questo è ancora più arretrata. Datemi retta, ancora più arretrata. Altro posso che fare i mansionari. Aspetta, facciamo rispondere, se che ci voleva intervenire. No, soltanto una battuta su questo. Un'altra responsabilità delle imprese, secondo me, sta nel fatto che oggi si stracciano le vesti, poi qui magari potrei sbagliarmi, chiedo a voi, si stracciano le vesti perché il mercato del lavoro e quindi il sistema formativo non li offre esattamente il professionista di cui loro hanno bisogno. Infatti come volevo se l'università dovesse formare per l'azienda X, neanche per il settore, per cui vero. In qualche modo vengono meno a un ruolo formativo, che secondo me cambia l'impresa, ok? Ma se cambia l'impresa vuol dire che l'impresa diventa da un luogo di produzione di beni e servizi, che resta, anche un luogo formativo. E oggi è come se volessimo la pappa pronta sul mercato, ma evidentemente per i livelli di complessità che anche il paradigma ha fatto pur essendo vero, Francesco, che noi un po' di sistema duale dobbiamo tentare di farlo. Io volevo fare una domanda a Fuggetta, abbiamo due minuti, ma secondo me ce la può fare. Allora, riusciamo con la burocrazia che abbiamo in Italia a tenere abbastanza allineati i programmi delle università e delle scuole con l'innovazione che continua a correre, facciamo fatica a stargli dietro in azienda? Secondo me gli strumenti non sono carenti, cioè ce ne sono di molto validi, per esempio il master in alto apprendistato per i laureati, io lo trovo lo stiamo sfruttando molto ed è uno strumento che funziona bene, è una questione di volontà, perché non vorrei che ci nascondessimo sempre dietro appunto alla mancanza di strumenti. Io penso che sfruttando bene il master in alto apprendistato, andando su crediti di imposta automatici, quindi eliminando passaggi burocratici inutili, le cose se si vogliono fare si possono fare, quindi vorrei vedere, diciamo, il bicchiere mezzo pieno. Dovremmo concentrare le nostre attività su quegli strumenti, su quelle modalità che abbiamo visto funzionano, e ce ne sono alcune, poi magari cerchiamo anche di arricchirla, per amor del cielo, non si è mai arrivati in fondo. Però ecco, ho sempre la sensazione che si deve ricominciare da capo, facendo appunto cose nuove. In questo mondo in realtà non si sviluppa una struttura robusta, perché partire da zero tutte le volte, ricominciare da capo, Va bene, io alla fine individuerò il colpevole sui competence center, lo daremo in pasto ai nostri ascoltatori. Intanto grazie a Alfonso Fuggetta e Francesco Seghezzi, e noi torniamo subito dopo Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Della belva. Eccoci qui tornati, compare dei Conti della Belva, in diretta qui dello studio di Milano, formazione oggi a tre, qui in studio Renato, Mario, e ci abbiamo sempre collegato il nostro ingegnere capo, grande professore sibaritico, consumatore di studenti e di studentesse della Bocconi. Magari, caro Alberto Caramanfè, saluti a tutti. Magari delle studentesse, e invece no. Allora, iniziamo con, c'è qualche messaggio poi da commentare, ma iniziamo con due brevi telefonate ai nostri ascoltatori. Cominciamo con Sebastiano da Milano. Attenti cari ascoltatori, non è Barisoni che parla della Germania. No, Barisoni oggi passerà la giornata in ginocchio sperando che la Merkel perda. Sebastiano, rassegnati, la Merkel torna cancelliere, quindi avrai di che parlare male contro di lei per anni ai microfoni del pomeriggio a Focus Economia. Tu tifi contro la Merkel? Eh sì, ma dai, ma cosa fate in questi anni? Su, zero riforme, collusione col cartello automobilistico, conservazione... Va bene, ti consegno co-conduttore di Barisoni il pomeriggio, allora, va bene. Hai fatto la tua scelta, vai a Focus Economia. Poi, se eccedi ancora un po' in più, puoi andare anche, naturalmente, ospite di... Cruciani, sul tema ovviamente le perversioni sessuali di Angela Merkel. No, beh, basta fare così. L'economia del veganesimo si può fare? L'economia del veganesimo? No, sì, quello sai che c'è il libro in uscita di Giuseppe, non tentare adesso di confinferrarlo. Però sarebbe bello un dibattito tra te e Giuseppe, lui sull'economia del veganesimo. Questo lo lancio, lo lanciamo e lo facciamo. D'accordo, siamo seri. Allora, cominciamo con Sebastiano che ci chiama da Milano. Sebastiano, prego. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere, avete mai fatto un giro nei diciamo ITIS o ITS come si chiamano oggi? Ecco, queste scuole in buona sostanza sono prive di strumentazioni adeguate, cioè nel senso che gli studenti non lavorano mai sulle macchine, non so, sto parlando ad esempio per quanto riguarda le specializzazioni di meccanica, sui centri di lavoro, sui transfer, sui torni a controllo numerico. Io ad esempio ho visitato quello di l'ITIS di Sesto, il mio lavoro anche di assicuro diciamo aziende manifatturiere, e quindi ho il contatto sia con gli imprenditori che con alcune scuole. Io, essendo appunto perito meccanico, essendomi diplomato lì, sono rimasto scioccato dal fatto che i macchinari erano rimasti quelli del tempo. No, che non c'erano più nemmeno i macchinari. Nemmeno quelli del tempo. No, non sono più ACM. E quindi ad un certo punto, se noi dobbiamo formare appunto queste competenze che poi serviranno per l'industria 4.0, io la proposta che faccio, che faccio generalmente anche gli imprenditori che incontro, è quello di regalare. Ah no, certo, regalare certo. Le macchine che sono state dismesse, appena dismesse, con la 4.0 non si può. Agli istituti in maniera tale che poi il passaggio, diciamo adesso così, Renato spiegherà perché non si può. Lasci però che io inviti gli ascoltatori a chiarire. Un conto sono gli iscritti agli istituti tecnici industriali, esatto, e un altro conto sono gli ITS. ITS. Gli ITS sono l'educazione terziaria professionalizzante successiva, cioè sono le alte scuole post istruzione tecnica, gli ITS. E gli ITS in Italia, commentavamo prima tra noi, malgrado, cioè, ci stiamo provando in tutti i modi nelle associazioni territoriali di Confindustria, con le articolazioni periferiche del MIUR, i dati sono disastrosi, cioè noi abbiamo creato in 17 regioni 93 fondazioni per l'alta tecnologia dell'insegnamento tecnico, a questo sono delle specie di accademie dell'insegnamento tecnico, l'ETS, e con 93 fondazioni, 17 regioni, 2.100 quasi partner industriali coinvolti in tutta Italia, abbiamo in tutto 7.600 iscritti in tutta Italia, vi rendete conto? È pazzesco, in Germania sono 760.000, ecco, questo ci dà l'idea della distanza tra quello che servirà e quello che c'è nell'offerta formativa italiana. Il totale degli iscritti negli anni, ma comunque nei corsi, l'anno universitario che si avvia a chiusura in Italia, delle materie attinenti a industria 4.0, in informatica, ingegneria eccetera eccetera, sono in Italia, erano l'anno scorso 58.000. 58.000 significa che di qui a 5 anni è il totale di quello che arriva al sistema delle imprese italiane da quelle facoltà, sono 10.000 l'anno, pochissimi. Ecco, questa è la fame di capitale umano formato di cui io sono molto molto preoccupato. Perché, Renato, non si può, volendo, perché dare donare? Bisogna rimetterli al CIE, quindi tutta la parte di sicurezza per qualsiasi macchina che esce dall'azienda e viene o donata o venduta, tu devi fare il certificato CIE. Quindi ti dovresti prendere la testa. No, cioè... ma poi il problema è che se poi un ragazzo si fa male, la colpa praticamente è la tua. È la tua. Su quella macchina. Però vorrei dire una cosa sull'allineamento delle dotazioni delle scuole. Allora, io ho sempre sostenuto che bisogna tornare come si faceva tantissimi anni fa, che i ragazzi vengono nelle scuole, cioè vengono nelle aziende, perché se noi pensiamo di poter fornire le scuole con le ultime tecnologie che non si possono spesso permettere le aziende, perché spesso sono le stesse aziende che non riescono a permettersele, sogniamo, perché il costo sarebbe folle. E noi non vogliamo sognare. Sentiamo Stefano da Brescia. Stefano, prego. Beh, non mi sentite? Sì, vai. Non me ne voglia il buon Barisoni, però io devo spezzare una lancia per la Germania. Spezza, spezza, spezza anche lui, vai, vai, scusa. Beh, noi ci lamentiamo che non ci sono le competenze, ma se andiamo a vedere l'ultimo report dell'OECD, Educational Glance, andiamo a vedere che noi spendiamo il 5.6 del GDP a differenza di una media dell'8%. E quindi è in Germania per la ricerca applicata, non quella di base, sono 15 miliardi. Quando da noi forse l'ordine delle centinaia di milioni, ma far tanto, ma far veramente tanto. E quindi in Germania poi le università sono gratuite. La ministra Fedeli, che non è laureata, andava a dire qualche giorno fa che la mancanza di laureati è dovuta alle famiglie a basso reddito. Cucciola lei. Però se le università non sono gratuite, se il diritto allo studio è impossibile, ci sono gli idonei non beneficiari, questa figura mitologica dell'idoneo non beneficiario. Come si fa a portare lo studente anche meritevole, cioè quelli che hanno una testa grande, grossa, come si fa a portarli all'università? Come si fa a spingerli anche dopo a fare il PhD? Se le borse di studio sono poche, magre, e c'è anche questa cosa che dopo 6 anni, dopo il PhD, se non entri in università ti cacciano fuori. Cioè, allora, Stefano, solidi dati e solidi argomenti. Ripeto, l'università oggi protesta italiana perché dice: mentre nella scuola voi avete fatto 3 leve con la buona scuola per 170.000 unità e non basteranno, questo è evidente, nell'università noi siamo regrediti da quasi 70.000, oggi sono 54.000, la somma dei docenti e dei ricercatori e dei ricercatori docenti, perché in realtà poi svolgono funzione sostanzialmente docente più che di ricerca nell'università italiana. Questa è la grande contesa che è in atto, che è una contesa di assunzioni, per essere chiari. Ecco, come sempre la scuola, l'università per chi ci lavora e non per che cosa offre. C'è qualche SMS? Ce n'è uno che secondo me chiama in causa Renato, e scrive: Stefano, una delle cose che più mi spaventa è l'idea di una prospettiva di formazione on the job. Allora, Renato, visto che tu sei imprenditore e visto che questa posizione non è minoritaria, ma secondo me è maggioritaria, cioè la gente ha timore di andare in azienda, diventare specifica a quell'azienda e farsi sfruttare brutalmente, porta la tua esperienza, come si direbbe in questi casi. Che gli risponde? No, ma allora, intanto, secondo me, è l'unica formazione che riusciremo a fare nel futuro. Perché proprio per quello che dicevo prima, quando parlavamo di università, tenere dietro con i programmi attuali e la burocrazia della scuola a quello che è il mercato del lavoro attuale è quasi impossibile. E quindi, più che imparare a lavorare sul posto di lavoro, se quella è la formazione on the job e la formazione che ti fa l'azienda, non vedo molte alternative. Perché la scuola ormai l'unica cosa che può fare è insegnarti ad imparare. Mentre le aziende ti fanno fare della formazione per tenerti aggiornato su quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove necessità organizzative, eccetera, eccetera. Poi, sul fatto che uno venga, come dicevi tu prima, venga formato specificamente sull'azienda, a me fa un po' ridere, perché poi se sei formato e sai fare delle cose vai bene per qualsiasi azienda, non è che lo lego alla mia azienda. Però il discorso è che rimane la cosa brutta di questo SMS, è che rimane la contrapposizione fra lavoratore e impresa. Non abbiamo ancora capito in Italia che ormai lavoratore e impresa devono andare a braccetto, perché se cresce il lavoratore mette in grado l'azienda di crescere. Le aziende non sono fatte di un capo che fa tutto, il capo decide solo le strategie, le aziende sono fatte delle persone che ci lavorano. O noi riusciamo ad avere persone che lavorano allineate alle esigenze dell'azienda, allineate alle esigenze del mercato, e allora l'azienda cresce e si sviluppa in tutti e due ne hanno dei benefici, oppure non andiamo da nessuna parte. Vai Alberto, rapido. Rapidissimo, le imprese invece dovranno addirittura rilasciare quelle che noi chiamiamo open badge di certificazione della conoscenza, quindi imparare a diventare erogatori formalizzati di competenze. Sono d'accordo. Perché il concetto di erogazione verticale dello Stato è insufficiente, tardivo, pensa, però devono imparare a farlo. Pensa Carlo Alberto al valore aggiunto e anche patrimoniale dal punto di vista contabile inespresso che c'è in questo gruppo dai cui microfoni parliamo, il Sole 24 Ore, proprio su questa cosa di cui hai appena parlato. Tocchi un tasto delicatissimo. Sì, infatti, sicuramente, ma guarda che le imprese devono imparare a diventare produttori di conoscenze formalizzate. E questa cosa può diventare addirittura, perché no, proprietà intellettuale. Ma certo, ed è la certificazione ampia in catene dal basso di fiducia, la famosa blockchain, e torniamo sempre lì a uno degli altri motori della trasformazione dell'intero mondo e dell'intero modo del mondo in cui viviamo, che affianca, ma finisce per sostituire, cari ascoltatori, il mondo recintato e rinchiuso dei programmi nazionali dell'offerta pubblica della scuola. Capite? È così, cioè nessuno vuole negare l'importanza dell'offerta pubblica e degli anni dell'obbligo, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, le skills, le modalità che sono ibride, sono fatte di crossover, di capacità di mettere insieme, non in luoghi unici, non in tempi limitati da orari, non con azioni limitate dal mansionario del contratto, tutta roba preistorica, capacità e competenze di lavorare insieme su un bene che è anche un servizio, su un'esperienza che è la soddisfazione di un desiderio. Questa roba qui si fa nella manifattura più hard oramai, non è se solo più nel servizio finale al cliente, nel vecchio concessionario dell'auto, perché la customizzazione del prodotto chiede a tutti di adottare una cosa di questo genere qua, diversa e affascinante per molti versi. Non credete a chi ve la dipinge come perderete il lavoro e sarete sostituiti dai robot, perché la somma di questa capacità ibrida di lavorare su modalità trasformative ed esperienziali è umana quintessenzialmente, lo capite? Non mi paga una specie di utopica organizzazione di Gridlow verso il futuro mitico, però credo profondamente che quello che si vede in tanti pezzi del mondo di un'offerta avanzata di beni e servizi sia la realtà verso cui dobbiamo incamminarci. A me sembra che in Italia troppi o la ignorino o la avversino senza averla capita. Torniamo subito. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, le tempi di Scipio finita e la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Pronto? Pronto? Noi diciamo pronto perché naturalmente spero che ci sia una telefonata. E perché spero che ci sia una telefonata? Perché stiamo un po' variando, ci perdoni, lei non può saperlo, ma siamo in un momento di qualche emergenza, perché la programmazione dei nostri ospiti vede i nostri ospiti progressivamente avere immaginato che c'è di meglio, si erano dimenticati l'impegno con noi, quindi stiamo procedendo con la nostra scaletta in maniera un po' diversa e quindi stiamo procedendo in maniera tale da arrivare subito al punto della vostra vittoria. Sì. Una grande vittoria, una vittoria popolare. Allora, qual è questa vittoria popolare? La vittoria popolare è quella in Cassazione dei legali, in rappresentanza però di una delle più popolari cantanti italiane. Mai mi sarei immaginato quando ero piccolo di abbinarla a una lotta libertaria per i diritti di noi contribuenti fino all'ultimo livello della giustizia contro lo Stato, che gli voleva appioppare la stabile organizzazione per fargli pagare l'IRAP, e invece lei riesce, vendicando decine di migliaia di noi tutti che la paghiamo perché il commercialista ci dice ti conviene pagare, perché se va in contenzioso metti prima il 33% sul tavolo, poi devi pagare noi di qua, di là, va su, paga sto po' dire. E invece Orietta ci vendica e vince lei, e glieli devono restituire, e Gramellini ieri ci è andato in puzza sul Corriere, e vai Orietta! Perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù, voleva arrivare fino in cielo, il grattacielo adesso non l'ha più. Eccoci qua. E allora Alberto Gambetti, eccoci. Come avete fatto? Stato? Perché avete avuto questa costanza di sfidare lo Stato fino in Cassazione? Beh, diciamo che la questione ha un prologo, come l'avevo accennato nella corrispondenza che era intervenuta nei giorni scorsi. Già nel 2015 ho avuto modo di affrontare questa questione in Cassazione, sempre per conto della mitica Orietta. E allora la questione era ancora più complessa perché non c'erano grandissimi precedenti ed aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ci aveva visto vittoriosi. Il dottor Moratti aveva seguito in quell'occasione i procedimenti di secondo grado, l'Avvocatura dello Stato ha impugnato e siamo andati a discutere con un'avvocatura particolarmente aggressiva, ma fortunatamente siamo riusciti a dimostrare che sostanzialmente i presupposti per l'applicazione dell'imposta non c'è perché manca sostanzialmente quella organizzazione autonoma che la norma richiede. Perché nella sua esperienza l'amministrazione tributaria estende in maniera così generalizzata verso autonomi e professionisti la presunzione che la stabile organizzazione in base alla quale far pagare l'IRAP invece ci sia? Guardi, su questa questione può intervenire Moratti, che è qui. Sì, sono Riccardo Moratti, commercialista, grazie di essere qui. Buongiorno. Buongiorno. Noi siamo, diciamo, quelli sul campo. In prima battuta l'avvocato arriva alla fine e sì, voi quando siete quelli che siete tra l'incudine e il martello di noi poveri contribuenti e le pretese, esatto, dell'Agenzia delle Entrate, e siamo quelli che dicono, come ha giustamente detto lei, in prima battuta se fare la scelta se iniziare o meno il contenzioso. Sì. No, perché a me il commercialista, che io di solito ho ritualmente cambiato fino all'ultimo, mi diceva paga su, io dico no, se non ci sono i presupposti io non pago. La scelta, per esempio, della cliente Galimberti, per noi è la Galimberti, certo. Perché siamo formali, è stata quella, lei è una persona specchiata e che non corre mai rischi, è così come la si vede in televisione e anche nella vita reale, e quindi lei ha preferito, come i nostri clienti, a dire la verità, pagare e poi chiedere il rimborso. In questo modo non si affronta il rischio delle sanzioni. Il famoso solve e trepete. Esattamente. Che però è un principio che viola presupposti fondamentali del mio diritto naturale. Io la vedo così perché il solve e trepete è qualcuno che mi dice: senti, io ho la spada in mano, che fai? Mi paghi intanto, poi vediamo. Ecco, io non lo sopporto il solve e trepete. Comunque, chiusa parentesi. È piuttosto fastidioso, ma del resto l'imposta, la legge del 97, diciamo, ha dato una definizione. La Corte di Cassazione nel 2001 ha detto che per i professionisti non è connaturata questa stabile organizzazione, a differenza del reddito di impresa, e praticamente questo ha fatto sì che caso per caso debba essere affrontato in commissione. È un'assurdità, in 20 anni lo Stato non è riuscito a dare delle direttive precise, quindi o si va in contenzioso o a fronte della cartella per chi non ha pagato, o direttamente chiedendo rimborso per chi è più prudente. Bisogna analizzare caso per caso, e questa qui secondo me è la cosa, insomma, forse inaccettabile, paradossale. Eh no, paradossale perché ma lei la conferma però del fatto che non si riesce a dare una fattispecie generale. Di che cosa vi stupite? È la conferma più plateale del fatto che il presupposto della richiesta di un dovere da ottemperare è un presupposto fondato sulla mera forza, altrimenti saremmo qua a dilibare e a confrontarci su qual è la definizione generale per capire, oltretutto, senza dover perdere tanto tempo col professionista che ti assiste e se decide contenzioso o meno, come essere in linea, in regola, senza nessun dubbio e con il minor dispiego di tempo e di risorse. Ma non siamo in condizione di farcelo, perché è lo Stato che non ci dà la definizione, il confusionario ladro che non sa su qual è la base generale. Perdonate, me la prendo io la responsabilità, voi siete stimati professionisti, non potete esprimervi così, però. Ma non si meravigli, perché l'IRAP ha sostituito l'ILOR, per la quale i piccoli imprenditori c'era stata la stessa identica cosa. Li avevano seguito allora non in Cassazione ma fino in Commissione Centrale, allora c'era quello, sempre la signora Galimberti, oltre altri tanti nostri clienti, quindi è uguale, la storia si ripete. La storia si ripete perché il presupposto è sempre lo stesso. Ma tra l'altro ultimamente c'è proprio una, cioè, l'abitudine a fare piccole multe in modo che le paghi, così non vai... Esatto, c'è sempre il sospetto che questa genericità delle norme sottenda il fatto che si vuole scoraggiare l'impugnazione, si vuole scoraggiare l'intervento di un difensore perché costa e quindi si paga supinamente. Ma il caso più plateale è quello dell'imposta di registro negli acquisti. Mamma mia. Quello è una cosa insormontabile, cioè è impossibile. Noi qui a Reggio abbiamo, diciamo, persone serie in agenzia delle entrate con le quali si può parlare, ma è uguale a quello che succede, che si vede in televisione, diciamo. Io cito sempre Striscia la Notizia quando devo spiegare ai clienti perché devono pagare e gli consiglio di pagare e di non fare il contenzioso, perché lì i posti di registro sono davvero pochi soldi e lì davvero il contenzioso è impossibile. Sì, sì, da è impossibile, però voglio dire, questo è il presupposto di un'impostazione. Io adesso, un tempo io gridavo borbonica, poi ci ho pensato, ma neanche per idea, ma perché io devo attribuire a questo banale latrocinio un'aggettivazione di una cultura che aveva i suoi difetti, per così dire, ma comunque aveva anche forme esterne di civiltà. Qui siamo a un degrado progressivo dell'ordinamento che riguarda la definizione stessa delle basi imponibili, prima ancora che l'asfissiante mole di purtroppo procedure a cui siamo tutti sottoposti, il professionista che ti assiste quanto il contribuente, l'avvocato che ti deve difendere. Quando un ordinamento non ha chiare le basi generali delle basi imponibili, vuol dire che vive nell'opacità, vuol dire che vive nella truffa, vuol dire che vive nella sopraffazione della forza. Ecco, questa cosa qui è una roba che neanche ai tempi delle monarchie assolute, i tempi delle monarchie assolute erano fondate su una simmetria di fondo nel principio, come ovvio, del monopolio della forza, ma vivevano in ordinamenti estremamente semplici. Allora, questa roba qui, noi abbiamo il monopolio della forza esercitata attraverso minaccia innestata su ordinamenti elefantiaci e incomprensibili, e questa roba ha un effetto di esproprio di libertà e di paralisi di attività economica dal più piccolo al più alto livello enormemente superiore a quelle degli ordinamenti delle vecchie monarchie assolute. Applicate a paesi odierni, le monarchie assolute ci sembrerebbero un paradiso fiscale, sia come totale del prelievo, sia come semplicità delle basi imponibili. Questa è una cosa che, per chi studia da appassionato come me l'evoluzione degli ordinamenti fiscali, lascia senza parole. Noi abbiamo fatto passi indietro di parsec, non di anni luce, rispetto ai tempi di un monarca assoluto in questo campo del diritto. Forse l'unico, secondo me. Io ringrazio i nostri eroi odierni, Alberto Gambetti, avvocato, Riccardo Monatti, commercialista, come tanti loro colleghi. Se non ci fossero loro, noi saremmo ancora più nudi, esposti nelle torre zoroastriane al morso feroce di chi purtroppo vuole cadaveri, cioè i signori del fisco italiano. Sì, uso questo linguaggio, caro nuovo direttore che hai sostituito la Orlandi, perché sono disposto su questo. Se volete andiamo in tribunale, non chiederei niente di meglio a volte. Chiedete a un giudice che non si possano usare questi termini e vediamo poi in un pubblico dibattimento se tutto ciò che costituisce le asimmetrie, le ingiustizie dell'ordinamento italiano, il giudice li prende come argomenti, oppure dirà anche lui: lo Stato ha sempre ragione. In quel caso siamo nell'assolutismo. Torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Questo è da sfascio? Sì, da sfascio, assolutamente, decisamente da sfascio. Decisamente da sfascio. Nessuna automobile sfugge a questo ineluttabile giudizio universale. È una legge economica e psicologica. L'industria dello sfascio è la più piccola industria che prospera ai margini del mondo delle automobili, il simbolo della nostra furia di superarci e di fare a pezzi il passato. Allora, questa è la sigletta che noi teniamo dopo la ripresa estiva per questa serie di appuntamenti che facciamo con esponenti, possono essere della politica, dell'impresa, della finanza, eccetera, eccetera. sorridendo sulla definizione di rottamati. Come vedete, questo è un classico della televisione in bianco e nero del servizio pubblico dei primissimi anni 60, che spiegava agli italiani che il fondamento della cultura del consumo è quello della rotazione dei consumi, e quindi diceva: ecco, vedete, quelle automobili, quelle sono da rottamare, eccetera eccetera. Poi è diventato uno slogan politico. Oggi abbiamo chiamato in questa sorridente rubrica, quindi non è un giudizio di liquidazione personale o di moralizzazione, però è per capire e che cosa ci può venire e che cosa faranno queste tipologie di personaggi. Con noi oggi c'è Guido Crosetto. Guido Crosetto oggi è presidente della Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, si chiama AIAD. Lui e la sua famiglia sono imprenditori piemontesi, e però fin da giovane lui ha avuto una passione politica che l'ha portato nel tempo a diverse scelte politiche. Grazie di essere con noi, Guido Crosetto. Ciao, grazie a voi. Allora, ma come io devo rivolgermi nei tuoi confronti? Come di uno che tornerà a fare politica o guarda con distacco la politica? No, io mi sono autorottamato. Esatto. Mi sono autodistaccato, ma cioè, non ho intenzione, se mi chiedono tutti adesso se ho intenzione di tornare al Parlamento, dico di no, sto bene fuori, la passione politica rimane, ma senti, guardo con abbastanza distacco. Però senti un po', io siccome conosco la zona, la tua famiglia, come hai cominciato a fare politica tanti anni fa e così via, la cosa che mi interessa capire è tutte le esperienze che hai passato, che ti hanno anche portato nel tempo a cambiare la scelta politica e articolare in maniera diversa il tuo giudizio. Oggi parli in un modo, nell'ultima parola della tua politica, della tua parola politica, esprimi giudizi sull'Europa, l'America, cioè, che non esprimevi prima. Però detto tutto questo, la cosa che mi interessa è, se guardi al futuro e vedi lo sviluppo futuro del paese a breve, alle elezioni, quello che sta uscendo fuori, le nuove figure, i nuovi protagonisti, eccetera eccetera, rispetto alla storia della tua famiglia, com'è cambiata la vostra impresa, come sono cambiate le condizioni dell'impresa, l'accesso di capitale dell'area in cui venite e che resta il tuo fondamentale poi interesse, il tuo ubicon system personale, sei più ottimista o meno? Io sono totalmente pessimista. Perché? No, sono totalmente pessimista del futuro del paese, perché ho la sfortuna di girare il mondo, di vedere altre nazioni, di vedere altre coniunzioni fiscali, burocratiche, di vedere come si sta sviluppando il resto del mondo, e quindi quando torno in Italia mi prende un senso di angoscia e di tristezza che difficilmente riesco a far passare. E se dovessi dire a te stesso e a chi ci ascolta, alla luce di un giudizio di questo tipo sull'Italia, ma che cosa almeno saremmo forse, con un po' di sforzo, meno lontani dal poter fare tra le cose più indispensabili che ci servono per non perdere i tram e i treni? Sai, intanto noi abbiamo una burocrazia e un livello di senso dello Stato che trovo difficile cambiare in tempi brevi. Ci ho detto, abbiamo ancora aziende di qualità, abbiamo scuole di qualità, cioè che noi diciamo abbiamo anche amministrazioni pubbliche di qualità, cioè abbiamo al nostro interno gli esempi da seguire. Il problema è che normalmente questi esempi non li seguiamo perché non portano consenso elettorale, perché sono perché i primi poi a non volere non so, una meritocrazia nella classe dirigente, una società fatta per bene, sono molto spesso gli stessi imprenditori. Cioè, io non faccio una suddivisione società civile e politica, è un tutt'uno il paese, ognuno ha la classe politica che si merita, ha la burocrazia che si merita, ha il sistema burocratico che si merita. Infatti dove c'è un substrato diciamo più serio, anche le amministrazioni pubbliche funzionano molto meglio, no? Anche all'interno del nostro paese. Cioè possiamo dirle che in Italia c'è un problema trasversale di classi dirigenti che ha gli stessi tipi di difetti, dall'impresa alla finanza, alle banche, eccetera eccetera? Sì, certo, assolutamente sì, come dimostrano aziende pubbliche, private, banche, famiglie, politica, cioè abbiamo esempi di altissimo livello ovunque, esempi di scarso livello ovunque. Però, Oscar, io devo sfidare Guido però su questo, perché sono Carlo Alberto, perché ovviamente nel momento in cui è una persona che gira per il mondo, e lo so, non può poi farmi il nazionalista orgoglioso delle tradizioni. Quando Guido, è la verità, che dobbiamo far viaggiare burocrati, imprenditori per il mondo per imparare. ma senza tradire l'origine, semplicemente con la mentalità aperta. Perché? Perché rinchiudersi quando noi avremmo tremendamente bisogno di esporre un pezzo del paese all'Europa e al resto del mondo e superare il provincialismo? Perché quindi questa, da te, perché? Non me l'aspetto da te questo. Ma perché io differenzio provincialismo e attenzione al mio paese. Cioè, io vedo belle donne passare, ma amo mia moglie, e non è che ogni donna che fa passare le corro dietro. Cioè, è la stessa cosa, posso girare in giro per il mondo, vedo paesi migliori del mio, non è che torno e schifo il mio, anzi vorrei che il mio crescesse. Ma quello che vedo nei paesi quando giro e che in Italia non vedo è che loro si comportano da nazione. Se io vado in Francia, vedo Parigi, vado a Londra, vedo Londra, e poi vedo cosa fanno la Francia o UK per mantenere i loro interessi nazionali, senza vergogna di farlo. Guarda il caso Macron STX, ma posso citarne decine di casi di questo tipo. Guarda cosa stanno facendo sotto banco, cercano di fare all'Italia in Libia, sia UK che Francia. Perché? Mica lo fanno perché lo fanno perché sono interessi economici che vogliono sottrarre a noi e portare alle loro nazioni o alle loro aziende nazionali. Per cui proprio girando in giro per il mondo trovo difficile poi arrivare in Italia e non capire come noi non vediamo che esiste un nuovo modo di combattere le guerre tra nazioni, che non è più quello con i carri armati, per fortuna, nell'Occidente, ma è quello per conquistare spazi di PIL per il futuro. E si conquistano, io non li vedo conquistare dall'Europa, li vedo conquistare dalla Germania, li vedo conquistare dalla Francia, dall'Olanda. Basta pensare a cosa è successo a FCA, cioè la Fiat sta all'interno dell'Europa ma non sta più in Italia. Però in quel caso è stata una scelta le cui radici, prima che nelle scelte dei concorrenti eccetera eccetera, raccontano della corta visione di imprenditori del settore che hanno saltato per X volte i cicli di investimento perché avevano differenziato altrove. È male la storia di FCA, dico. No, però la storia FCA, la sede fiscale e la sede legale, Oscar, cosa significa? La settimana scorsa Lockheed Martin doveva decidere dove allocare il magazzino, ha preferito l'Olanda all'Italia per motivi fiscali e di dogane. Però sono cose oggettive, per cui voglio dire, se dovessi declinare l'attrattività e fare i nostri interessi, ti direi tagliamo le tasse, tagliamo la spesa, questo è quello che mi stai dicendo anche tu. Dicendo certamente che tagliando le tasse e tagliando la burocrazia si aumenta sicuramente l'attrattività, ma ti sto dicendo che non è che l'Olanda si pone problemi di essere all'interno dell'Europa di non concorrenza con noi. No, il bello degli ordinamenti competitivi è questo, no? No. Sì, certo, però a me mi rassorride quando penso a gente che pensa all'Europa come un grande Stato federale. Cioè, io non ho mai sentito nessuno del Delaware, ho mai sentito nessuno della California cantare l'inno della California con la mano sul cuore, con a francesi, tedeschi, giustamente. No, come noi siamo una confederazione. Senza neanche sapere le parole dell'inno europeo. Carlo Alberto. No, ho detto che in California si sbaglia anche su Texas, il che vuol dire peraltro che l'americano è riuscito a fare un grande senso nazionale pur conservando un'origine statale. Assolutamente, ma sì. La sfida è quella, allora chiudiamo barriere, è questo che stiamo dicendo, perché questo vogliono i tuoi amici nazionalisti, caro Guido, dai. Tu sai quelli sono gli unici esempi di stati federali, no? Il Canada, l'Australia, gli Stati Uniti, sai come nascono? Nascono con lo sterminio delle popolazioni esistenti e con una nuova cultura che si insedia, con una lingua unica, no? Cioè, quindi nascono in quel modo e dopo 200 anni, 300 anni sono quello che sono. È un po' di sterminio in Europa l'abbiamo fatto, direi, facciamole ancora, tiriamo sulle barriere. Spariamoci con i francesi. Io lo solo per lo sterminio, non vorrei solo che se gli sterminati fossimo noi alla fine, lo usavo in quel senso, cioè non vorrei che gli indiani poi alla fine riuscissimo a essere ancora noi, no? Va bene, allora io intanto lo sapevo, perché era per questo che abbiamo scelto Guido Crosetto, un imprenditore che vuole di più un paese che si sappia tra virgolette difendere con Elon Musk. Noi abbiamo un'idea un po' diversa perché siamo più mercatisti eccetera eccetera, però intanto grazie Guido e noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia, le mesta, le tempi di Scipio finita e la festa, stringiamoci a corte l'imposta è più forte e fino alla morte. della belva. Eccoci qui, tornati cari ascoltatori, è una tirata d'orecchie ai nostri ospiti che sono sottratti, sono cambiato un po' tanto. Ito Riggio, dell'ENAC, che hai fatto? Sei sparito nel nulla, dovevamo parlare di Ryanair, insomma, detto tutto questo, cari compari della belva, rapido giro tra noi per capire come la pensate, rapido giudizio. Oggi che non può Udo. Cosa vi ha colpito? No, Udo è in treno. Udo prendiamo in treno. Un accento tedesco. Udo allora. È in Emilia, no. Quindi oggi non potevamo perché sicuramente non avrebbe letto il collegamento telefonico. Cominciamo da Mario Seminello. Cosa ti ha colpito la campagna elettorale? Cosa credi che sia l'aspetto più rilevante del voto dei tedeschi domenica, con quali conseguenze sul cantiere europeo che è in corso? Martedì è stato annunciato il nuovo discorso di Macron, che annuncerà le sue linee precise per la riforma del cerchio più ristretto delle cooperazioni europee. Quindi martedì la risposta di Macron, altro che il discorso della May a Firenze ieri. Ma che cosa ti ha colpito della campagna tedesca, Mario? Beh, i toni molto, molto pacati, mi pare di capire. Grande fair play. Alla fine Schulz e Merkel sembravano due coniugi di lunga data, anche nel dibattito elettorale. Il dibattito tedesco è un classico dibattito da opulenza, nel senso che si discute se distribuire parte del surplus a meno tasse o più spese, segnatamente più investimenti, o un mix delle due. L'esito, diciamo, se ci saranno ancora i numeri di una grande coalizione, vedremo. Di certo, se dovesse esserci il ritorno dei liberali, come diceva anche Udo la settimana scorsa, consideriamo che i liberali sono piuttosto duri sullo scacchiere europeo, quindi per loro un paese che non va bene esce dall'euro e si fotta, quindi questo è sicuramente molto interessante. Io, a dirti la verità, la campagna elettorale, se fossi stato, avessi avuto per le mani un giornale italiano giornalista, non l'avrei descritta come l'hanno descritta i giornali italiani. Non è vero che è stata una roba da morte di noia, non è vero che il paese è seduto sui talloni e sceglie solo la sicurezza. C'è una frattura molto forte storica. Alternative für Deutschland rischia di prendere il 14-15% dei voti. Questa roba cambia la storia tedesca. È già partito sui giornali tedeschi stamattina già l'attacco alla Merkel, dicendo la colpa è tua, hai spostato troppo a sinistra, troppo al centro e troppo a sinistra la linea, e questo porta per la prima volta gente che fa i comizi con i simboli e alcuni rappresentanti dei simboli del Reichsburg, che in teoria è un'organizzazione vietata dalla legge in Germania perché dichiaratamente nostalgica del nazismo, e questa roba è altro che di Link quando cade DDR, cioè è una cosa, primo, molto pesante. Secondo, vediamo, perché per l'Europa se Lindner, che è un personaggio molto spumeggiante, il capo dei liberali, fa parte della coalizione, avrà delle richieste durissime, altro che Schäuble. In Italia è meglio che si regoli, cioè i liberali vogliono un muro nei confronti di ogni possibilità di cooperazione europea, quindi io credo che ci saranno sorprese rispetto ai giornali italiani che hanno descritto un paese in cui tutto resta come prima. Io non credo affatto. Caro Alberto, tu che dici? Deluso da SPD e dai democristiani, che non hanno tirato fuori un'idea forte della Germania in Europa e dell'Europa in generale, molto conservatori, molto difensivi, molto tattici, hanno lasciato grande spazio ai neonazisti, insomma, all'Allianz für Deutschland, che ha avuto un gioco facile sostanzialmente proprio per una mancanza di differenziazione. Molto deluso dalla Merkel, che doveva tirare fuori un'idea forte. Non riuscirà a passare alla storia, mi dispiace, non è né Schröder né Kohl, non lascerà un segno se non quello di una gestione prudente, conservatrice, becera, un filino reazionaria, se posso dire. Non è questa la Germania che amo, non è la Germania coraggiosa, con idee forti, che sa anche rubare spazio a chi quelle idee forti le usa invece per portare indietro il paese e l'Europa. Quindi nel frattempo, mi spiace, molto deluso. Nel frattempo le agenzie parlano di della rilevazione di un sisma di intensità 3.4 con epicentro Corea del Nord. Non sappiamo dirvi se l'origine è naturale o è tra virgolette nucleare, tanto per intenderci. Sentiamo rapidamente se abbiamo ancora qualche ascoltatore. Sandra da Roma, Sandra. Sì, buongiorno. Buongiorno Sandra. Io sono intervenuta per il riferimento agli istituti tecnici, sì, superiori di cui parlava, sì, prima, sì, e volevo dare la mia testimonianza. Ci dica. Perché anni fa mio figlio cercava il suo percorso, premesso che lui era uscito al liceo e aveva fatto 2 anni in Inghilterra a lavorare, è tornato e cercava appunto un percorso formativo. E io gli ho proposto questo istituto tecnico superiore, sì. Però devo dire che molti non li conoscono affatto. Ha ragione. Compresi i ragazzi. Assolutamente, no, per primi. Ecco, per primi, ma neanche le famiglie. No, no, ma lei ha tanto ragione, che io dico, ma è possibile un sistema pubblico della formazione che non abbia tra i suoi compiti prioritari l'orientamento alle famiglie? Cioè che consenta la consultazione di dati sul incrocio domanda-offerta per tipi di qualifiche, corsi, formazioni e titoli. Quali sono i tempi per ottenere l'impiego? Quali sono i primi stipendi? A distanza di quanto tempo? Che cosa serve la formazione pubblica se non fa l'orientamento alle famiglie? Sulla base di dati certi, viva Sandra che ha scoperto questa grande cosa. Renato, a sabato prossimo, dai. Ah, tu solo a sabato prossimo? Sì, c'è la musichetta. Ma tu in Germania non vendi? Ho no, noi in Germania vendiamo poco perché i nostri concorrenti lo sapevo. Sono troppi concorrenti. Sono bravi. Allora, grazie alla grandissima squadra che mi è superiore in tutto, Mario Seminerio, Carlo Alberto Canale Maffè, Renato Cifarelli. Appuntamento con me alle 8:15 di lunedì con Radio 24 mattina con Luca Talese e il 16 alle 16 il pomeriggio con la versione Oscar.